nostra valutazione è quella che il dialogo fra il governo e le regioni sia il terreno più importante di questa legislatura per attuare una parte del nostro programma, come le riforme costituzionali e come il federalismo, temi sui quali penso che con le regioni e le autonomie locali sicuramente ci dovrà essere un momento di confronto intenso e io mi auguro proficuo e positivo. Un premio alla Puglia, un premio al Mezzogiorno, un'attenzione concreta che il Presidente Berlusconi ha voluto rivolgere per il tramite della mia persona e di questo sono profondamente onorato.